ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Una bella mattina di giugno nacque la prima delle creature che ho allevato e l'ultima dell'antico ceppo degli Earnshaw. Eravamo occupati a fare il fieno in un campo lontano quando la ragazza che ci portava la colazione arrivò di corsa un'ora prima del solito e si mise a chiamarmi mentre correva attraverso i prati e lungo il sentiero. «Oh, è un bambino magnifico, Ansimo, il più bel maschietto che si sia mai visto, ma il dottore dice che la signora se ne andrà. Dice che sono mesi che soffre di consunzione. Ho sentito che lo diceva al signor Indri e adesso non c'è più niente che possa sostenerla. E prima dell'inverno sarà morta. Devi venire subito a casa. Tu devi badare al bambino, Nelly. Devi dargli da mangiare latte e zucchero e prenderti cura di lui notte e giorno. Ah, vorrei essere al tuo posto, perché sarà tutto tuo quando la signora non c'è più. Ma è molto malata?» chiesi, gettando il rastrello e allacciandomi la cuffia. «Penso proprio di sì, però sembra coraggiosa», rispose la ragazza, «e parla come se pensasse di poter vivere finché lui sarà un uomo. È fuori di sé dalla gioia. Il bambino è una tale bellezza». E ricominciò a descrivermelo tutta estasiata. Io, non meno solerte, mi precipitai a casa ansiosa di ammirarlo a mia volta, sebbene fossi molto triste per Indri. Nel suo cuore c'era posto solo per due idoli, sua moglie e lui stesso. Li amava follemente tutti e due, ma uno l'adorava e non riuscivo a immaginare come avrebbe fatto a sopportarne la perdita. Quando arrivammo a Cime Tempestose, lui era lì, sulla porta principale. Entrando, gli chiesi come stava il bambino. «È quasi pronto per mettersi a correre, Nell», rispose, con un sorriso che voleva essere allegro. «E la padrona?» mi arrischiai a chiedere. «Il dottore dice...» «Maledizione al dottore!» mi interruppe arrossendo. «Francis non sta affatto male». Ma una sera, mentre era appoggiata alla sua spalla e gli diceva che pensava di farcela alzarsi la mattina dopo, ebbe un attacco di tosse, molto leggero. Lui la sollevò tra le braccia. Lei gli mise tutte e due le mani al collo. L'espressione del suo volto cambiò e in un attimo era morta. Come aveva predetto la ragazza, il piccolo Hareton fu affidato completamente a me. La signora Indley bastava vederlo sano e non sentirlo mai piangere per essere del tutto soddisfatto riguardo a lui. Quanto a se stesso, la disperazione lo invase. La sua sofferenza era di quel genere che non si sfoga in lamenti, non piangeva e non pregava, lanciava maledizioni e sfide, insultava Dio e gli uomini e si lasciava andare a sfrenati eccessi. I domestici non sopportarono a lungo la sua cattiveria e i suoi comportamenti tirannici. Joseph e io fummo gli unici due a rimanere. Non me la sentivo di lasciare il piccolo che mi era stato affidato. Inoltre, sa com'è, ero sorella di latte di Hindley ed ero pronta a scusare il suo atteggiamento più di quanto avrebbe fatto un estraneo. Joseph rimase per vessare i fittavoli e i braccianti e anche perché stare in un posto pieno di peccati da condannare era proprio la sua vocazione. Le cattive maniere e le pessime compagnie del padrone furono certo un bel esempio per Catherine e Heathcliff. Il trattamento che riservava a quest'ultimo avrebbe potuto trasformare un santo in un demonio. In realtà sembrava che il ragazzo fosse davvero posseduto da qualcosa di diabolico a quell'epoca. Godeva nell'assistere alla irreversibile degradazione di Hindley e si distingueva ogni giorno di più per i suoi modi villani, scontrosi e brutali. Non riuscirei a descrivere l'inferno in cui vivevamo, in quella casa. Il curato smise di farci visita e alla fine nessuna persona per bene si avvicinava più a noi, se facciamo eccezione per le visite di Edgar Linton alla signorina Cathy. A 15 anni era la regina di questa contrada. Non aveva uguali. E che creatura arrogante e testarda era diventata. Confesso che non mi piaceva ora che era cresciuta e la facevo spesso indispettire nel tentativo di smorzare la sua arroganza, ma nonostante questo non mi prese mai in antipatia. Era straordinariamente fedele ai vecchi affetti. Perfino Heathcliff manteneva inalterata la presa sui suoi sentimenti e il giovane Linton, pur dall'alto della sua superiorità, trovò difficile fare su di lei un'impressione altrettanto profonda. Era lui il mio padrone precedente e quello sopra il camino è il suo ritratto. La signora Dean alzò la candela e io potei distinguere una faccia dai lineamenti delicati, straordinariamente rassomigliante alla giovane signora di Cime Tempestose, ma con un'espressione più pensosa e più benevola. Un'immagine gradevole. I lunghi capelli chiari erano lievemente ondulati sulle tempie, gli occhi erano grandi e seri, la figura fin troppo aggraziata. Non mi stupiva che Catherine potesse dimenticare il suo primo amico per un individuo così. Mi stupiva invece molto che lui, se il suo animo corrispondeva al suo aspetto, potesse essere attratto da Catherine Earnshaw, così come me la immaginavo io. Un ritratto molto gradevole, osservai rivolto alla governante. È somigliante? Sì, rispose. Ma quando si animava un po', aveva un aspetto migliore. Questa è la sua espressione di tutti i giorni. In genere mancava di vivacità. Dopo le 5 settimane di soggiorno presso di loro, Catherine aveva continuato a frequentare i Linton e dal momento che non aveva nessuna intenzione di esibire il suo lato grezzo in loro compagnia e aveva il buon senso di vergognarsi di essere sgarbata là dove riceveva invariabilmente cortesie, senza volerlo, con la sua sincera cordialità, entrò nelle grazie della vecchia signora e del marito. Si guadagnò l'ammirazione di Isabella e il cuore e l'anima di suo fratello, conquiste che la lusingarono fin dal principio perché era piena di ambizione e la spinsero ad assumere una doppia personalità senza avere davvero intenzione di ingannare nessuno. Nel posto dove aveva sentito definire Heathcliff un volgare delinquentello e peggio di una bestia, stava ben attenta a non comportarsi come lui, ma a casa propria non aveva nessuna intenzione di mettere in pratica una buona educazione che avrebbe suscitato solamente delle risate e di tenere a freno la sua indole naturalmente ribelle, quando ciò non le avrebbe fruttato né stima né lode. Il signor Edgar trovava raramente il coraggio di far visita apertamente a Cime Tempestose. Era terrorizzato dalla reputazione di Hindley e cercava di evitare di incontrarlo. Eppure lo ricevevamo sempre, facendo del nostro meglio per essere cortesi. Lo stesso padrone, conoscendo il motivo per cui veniva, evitava di offenderlo e se proprio non riusciva a essere affabile non si faceva neppure vedere. Personalmente credo che Catherine non gradisse le sue visite. Non si dava da fare, non civettava, ed era evidente che non le piaceva affatto che i suoi due amici si incontrassero. Perché quando Heathcliff esprimeva disprezzo nei confronti di Linton in presenza dell'altro, lei non poteva dargli nemmeno metà dell'approvazione che dimostrava in sua assenza. E quando Linton esprimeva la propria repulsione e antipatia davanti a Heathcliff, lei non osava far finta di niente, come se parlar male del suo vecchio compagno di giochi fosse qualcosa che per lei avesse scarsa o nessuna importanza. Più di una volta l'ho derisa per le sue perplessità e le sue segrete angosce, che invano cercava di mettere al riparo dal mio sarcasmo. A dirlo sembra crudele, ma era così orgogliosa che diventava davvero impossibile compatirla per le sue pene, senza prima farle abbassare un po' la cresta. Alla fine si convinse a confessare e ad avere fiducia in me. Non c'era altra persona che potesse prendere come consigliera. Un pomeriggio il signor Hindley era uscito di casa. e quindi Heathcliff pensò bene di concedersi una vacanza. Credo che allora fosse sui 16 anni e benché non avesse brutti lineamenti né fosse privo di intelligenza, riusciva a dare un'impressione di abbruttimento interiore ed esteriore, cosa di cui non rimane traccia nel suo aspetto attuale. Prima di tutto, a quell'epoca aveva ormai perso tutti i benefici dell'educazione ricevuta, il lavoro faticoso e continuo, che cominciava presto e durava fino a tardi, aveva spento tutte le sue curiosità di un tempo nei confronti del sapere e tutto il suo amore per i libri e per la cultura. Catherine e lui erano ancora sempre insieme nei periodi in cui era libero dal lavoro, ma lui aveva smesso di manifestarle a parole il suo affetto e si sottraeva con rabbioso sospetto alle infantili carezze di lei, come se fosse consapevole che non poteva esserci nessun piacere nel prodigare questi segni di affetto proprio a lui. Nell'occasione di cui parlavo, entrò in casa per annunciare la sua intenzione di starsene a far niente, mentre io aiutavo la signorina Cati a sistemarsi il vestito. Lei non aveva previsto la possibilità che lui decidesse di rimanere in ozio e, immaginando di avere tutta la casa a sua disposizione, era riuscita, chissà come, a informare il signor Edgar dell'assenza di suo fratello. In quel momento, perciò, si stava preparando a riceverlo. «Cati, hai da fare questo pomeriggio?» chiese Heathcliff. «Vai da qualche parte?» «No, sta piovendo», rispose lei. «Perché hai quel vestito di seta allora?» disse lui. «Spero che non stia arrivando nessuno. Non che io sappia», farfugliò lei. «Ma tu dovresti essere nei campi adesso, Heathcliff, e è passata un'ora dal pranzo. Pensavo che te ne fossi andato». «Non succede spesso che Indri ci liberi dalla sua maledetta presenza», osservò il ragazzo. «Per oggi non lavoro più. Resto qui con te». «Oh, ma Joseph farà la spia», insinuò lei. «È meglio che tu vada». «Joseph sta caricando calce dall'altra parte, ne avrà fino a stasera e non verrà mai a saperlo». Con queste parole si accostò al fuoco e si mise a sedere. Catherine rifletté un istante aggrottando la fronte, capì che era necessario preparare la strada all'intrusione. «Isabella e Edgar Linton hanno accennato a una visita questo pomeriggio», disse dopo un minuto di silenzio. «Visto che piove, non credo che verranno, ma potrebbero venire. E in tal caso tu corri il rischio di essere rimproverato per niente». «Ordina a Ellen di dire che sei impegnata, Cati», insistette lui. «Non mandarmi via per quei due poveri stupidi dei tuoi amici. Qualche volta penso che dovrei lamentarmi perché loro... Ma non voglio». «Perché loro cosa?» esclamò Catherine, fissandolo con un'espressione turbata. «Oh, Nelly!» aggiunse poi con petulanza, allontanando bruscamente la testa dalle mie mani. «Mi hai quasi disfatto tutti i ricci. Basta così, lasciami stare. Di che cosa è che vorresti lamentarti, Heathcliff?» «Di niente, solo. Guarda il calendario su quella parete», indicò un foglio incorniciato appeso vicino alla finestra, e proseguì. «Le croci sono le sere che hai passato con i Linton e i punti quelli in cui sei stata con me, lo vedi? Ho segnato tutti i giorni». «Sì, una vera stupidaggine! E io dovrei farci caso?» ribatté Catherine con irritazione. «E che senso ha?» «È per farti vedere che io ci faccio caso». «E io dovrei passare tutte le serate con te?» domandò lei sempre più irritata. «Che cosa ne ricaverei? Di che cosa mi parleresti? Potresti essere muto o un neonato per tutto quello che sai dire per divertirmi, o anche per quello che sai fare. Prima non mi hai mai detto che parlavo troppo poco, o che non ti piaceva la mia compagnia, Cati», esclamò Heathcliff agitatissimo. «Bella compagnia, quando uno non sa niente e non dice niente», borbottò lei. Il suo amico si alzò, ma non ebbe il tempo di esprimere ulteriormente i propri sentimenti, perché si udirono gli zoccoli di un cavallo sul selciato e dopo aver bussato piano il giovane Linton entrò con una faccia raggiante di gioia per l'invito inatteso che aveva ricevuto. Non c'è dubbio che Catherine notasse la differenza fra i suoi due amici, mentre l'uno entrava e l'altro usciva. Il contrasto era simile a quello che si vede passando da una regione carbonifera con colline brulle a una bella vallata fertile. E la voce e il saluto contrastavano come l'aspetto. Linton parlava con tono dolce e basso, e aveva una pronuncia come la sua, signor Lockwood, meno rozza della nostra, più garbata. «Non sono venuto troppo presto, vero?» chiese lanciandomi un'occhiata. Io mi ero messa a lucidare le posate e a riordinare alcuni cassetti in fondo alla credenza. «No», rispose Catherine. «Che cosa fai qui, Nelly?» «Il mio lavoro, signorina», rispose. Il signor Hindley mi aveva dato disposizione di far da terzo incomodo a ogni visita privata che Linton avesse deciso di fare. Lei mi arrivò alle spalle e bisbigliò arrabbiata. «Vattene, tu e i tuoi stracci. Quando ci sono ospiti in casa, la servitù non si mette a strofinare e a pulire nella stanza in cui sono ricevuti». «È proprio il momento buono, ora che il padrone non c'è», rispose ad alta voce. «Non sopporta di vedermi trafficare con queste cose in sua presenza. Sono certa che il signor Edgar mi scuserà». «Io non sopporto di vederti trafficare in mia presenza», esclamò imperiosa la signorina, senza lasciare al suo ospite il tempo di parlare. Non aveva ancora recuperato la calma dopo la piccola disputa con Heathcliff. «Mi dispiace, signorina Catherine», fu la mia risposta, e continuai imperterrita nel mio lavoro. Lei, pensando che Edgar non potesse vederla, mi strappò lo strofinaccio dalle mani e mi diede un pizzicotto sul braccio, torcendomi a lungo la pelle con dispetto. Ho già detto che non le volevo bene e che non mi dispiaceva mortificare la sua vanità di tanto in tanto. A parte questo, mi aveva fatto molto male e perciò saltai su in piedi e gridai forte: «Oh, signorina, questo è proprio un brutto scherzo! Lei non ha il diritto di pizzicarmi e io non ho intenzione di tollerarlo!» «Io non ti ho toccata, bugiarda!» urlò lei con le dita che le prudevano per la voglia di rifarlo e le orecchie rosse dalla rabbia. Non ha mai saputo nascondere la sua rabbia, che la faceva sempre avvampare tutta quanta. «E allora questo che cos'è?» ribattei, mostrando una testimonianza di colore violaceo che la smentiva. Lei pestò i piedi, esitò un momento, poi, spinta irresistibilmente dallo spirito malvagio che aveva dentro, mi tirò un sonoro ceffone che mi riempì gli occhi di lacrime. «Catherine, cara, Catherine!» intervenne Linton, sconvolto dalla duplice colpa commessa dal suo idolo, falsità e violenza. «Esci dalla stanza, Ellen!» ripeté lei tremando tutta. Il piccolo Hareton, che mi seguiva dappertutto e che era seduto vicino a me sul pavimento, cominciò a piangere anche lui e fra i singhiozzi si lamentò: «Cattiva zia Cathy!» attirandosi così la sua furia infelice. Lo prese per le spalle e lo scosse finché il povero bambino diventò livido. Edgar istintivamente le prese le mani perché lo lasciasse andare, ma lei riuscì a liberarne una e il giovanotto, stupefatto, si sentì arrivare sull'orecchio un ceffone che non poteva certo essere scambiato per uno scherzo. Si tirò indietro, costernato. Io presi Ayrton fra le braccia e mi ritirai con lui in cucina, lasciando aperta la porta comunicante, perché ero curiosa di vedere come avrebbero regolato le loro divergenze di opinioni. Edgar, offeso, pallido, con le labbra tremanti, si diresse verso il punto in cui aveva posato il cappello. «Bravo», dissi fra me, «vattene, ora che sei avvisato. Ti si fa un favore a darti un assaggio del suo vero carattere». «Dove vai?» domandò Catherine, parandosi davanti alla porta. Lui si scostò bruscamente e cercò di passare. «Non devi andartene!» esclamò lei con vigore. «Devo farlo e lo farò», replicò lui con voce bassa. «No!» insistette lei afferrando la maniglia. «Non ancora, Edgar Linton, siediti! Non te ne andrai lasciandomi in queste condizioni. Starei malissimo tutta la notte e non voglio stare male per causa tua. Come faccio a restare dopo che mi hai preso a schiaffi?» chiese Linton. Catherine rimase in silenzio. «Mi hai fatto sentire paura e vergogna di te», continuò. «Non verrò più qui». Gli occhi di lei si fecero lucidi. Le palpebre cominciarono a battere. «Hai detto intenzionalmente una bugia», aggiunse lui. «Non è vero», gridò lei ritrovando la voce. Non ho fatto niente intenzionalmente. Va bene, vai via se vuoi, vattene. E adesso piangerò fino ad ammalarmi. Cadde in ginocchio a fianco di una sedia e si mise a piangere con zelo e seriamente. Edgar perseverò nel suo proposito finché fu in cortile e qui esitò. Decisi di incoraggiarlo. «La signorina è terribilmente capricciosa, signore», gridai. «È proprio una bambina viziata. È meglio che se ne torni a casa, altrimenti lei starà malata solo per far dispiacere a noi». Quell'anima mite gettò uno sguardo di sbieco attraverso la finestra. Aveva tanto potere di andarsene quanto un gatto di lasciare un topo mezzo ucciso o un uccellino mezzo divorato. «Ah», pensai, «non c'è verso di salvarlo. È condannato e corre incontro al suo destino». E così fu. Si voltò di scatto, si affrettò a rientrare in casa e chiuse la porta dietro di sé. E quando entrai un attimo dopo per informarli che Hindley era tornato a casa ubriaco e fuori di sé, pronto a farci cascare la casa addosso, il suo stato d'animo abituale quando era in quelle condizioni, vidi che il litigio non aveva fatto altro che creare fra loro una più stretta intimità. Aveva rotto le barriere della giovanile timidezza e aveva consentito loro di gettare la maschera dell'amicizia e di confessarsi innamorati. La notizia dell'arrivo del signor Hindley spinse Linton a raggiungere in fretta il suo cavallo e Catherine la sua camera. Io andai a nascondere il piccolo Ayrton e a togliere le cartucce dal fucile da caccia del padrone. In quello stato di ebbrezza malsana gli piaceva molto giocarci, mettendo in pericolo la vita di tutti quelli che lo provocavano o che semplicemente attiravano troppo la sua attenzione. Così io avevo escogitato il piano di togliere le cartucce, in modo che facesse meno danno se mai fosse arrivato al punto di premere il grilletto.